La zona rossa è allucinante stamane e triste nel suo silenzio piombato innaturale. Sono violati di certo i diritti costituzionali in questo carcere all'aria aperta, ma anche alcuni più modesti diritti di vita quotidiana, come quello di scendere al bar a prendere un caffè, di invitare un amico a casa, di passeggiare senza essere fermati 6 volte al minuto da poliziotti e carabinieri gelidamente cortesi. Ma la zona rossa è, per così dire, solo la punta dell'iceberg, perché tutta Genova si sta svuotando dei suoi cittadini. I negozi, i bar, le trattorie hanno le serrande abbassate, i passanti sono rari, gli autobus vuoti, le automobili poche, anche lontano dal centro, a Genova Sturla, come a Bolzaneto. La città è spenta, file intere di palazzi senza una luce e ogni tanto una finestra aperta, un suono di televisione. E si sente la mancanza di un'autorità civile cittadina, del sindaco insomma, che ha preso la sola iniziativa politica di vietare i panni appesi con le mutande, e in mutande invece lui e il comune tutto è rimasto. Così come si sente la mancanza, forse, dei vecchi partiti di massa, delle case del popolo, delle sezioni, dove i cittadini potevano riunirsi a discutere e eventualmente, in casi come questi, decidere insieme di non abbandonare la città, il quartiere, il negozio. C'era una volta Genova con la sua gente e oggi non c'è più. Molti sperano che torni lunedì, ma certo questo esodo o fuga dalla città è destinato a lasciare un segno, una ferita su cui, qualunque cosa succeda nelle prossime ore e giorni, bisognerà riflettere. Genova, come stai? Animali in gabbia. Abbiamo la sensazione non solo di essere sudditi, ma anche proprio chiusi in gabbia. L'altro giorno un anziano che si è sentito male, per poco moriva perché non è potuta arrivare l'ambulanza, l'hanno dovuto portare a braccia giù dalle scale, abbiamo dovuto fare scorte, i supermercati erano pieni così perché non si sa se potremo mangiare, è veramente una situazione. E lei poi gira con il passo in mano? Subito, per farlo vedere, perché non vorrei che, vista la mia borsetta. Cosa c'è scritto sulla borsetta? C'è scritto: centro storico chiuso in un ghetto, manifestare non è reale. Questo pomeriggio i tendoni del public forum della cittadella a cui ci siamo abituati in questi giorni sono un po' vuoti, ovviamente lo sapete, tutti quanti si sono spostati a seguire il corteo di questo pomeriggio. Il dibattito di questa mattina comunque era molto gremito, si discuteva del tribunale sui grandi crimini di questo ordine mondiale, l'accusato era appunto il sistema capitalistico, ha parlato prima fra tutti José Bové della Confederazione Paysanne e ha parlato di sicurezza alimentare, ancora una volta ha ricordato l'importanza della agricoltura nel mondo e ha ricordato che il 60% della popolazione, degli abitanti della terra è ancora contadino e quindi bisogna dare un'importanza rilevante e non più sopprimere i diritti dei contadini. Genova, presente! Italia, presente! Francia, presente! Cuba! Saranno proprio i migranti ad aprire le danze nel primo grande appuntamento di piazza contro il summit degli 8 grandi. Migranti vittime di una globalizzazione che li vuole solo come schiavi da sfruttare e poi gettare via, anche quelli che finiscono il loro viaggio sul fondo del mare ci saranno. Ad aprire il corteo infatti saranno proprio i parenti delle vittime della Ioan naufragata la notte di Natale del 98. Dietro di loro sono previste minimo 15.000 persone, migliaia di loro affronteranno un rischio in più, quello di essere stranieri in un paese che non li vuole vedere. Tardi ha parlato invece Nicoletta Dentico di Medici Senza Frontiere e lei ha parlato della salute che dice è già oggetto di commercio e la battaglia è quella sulla garanzia ai farmaci essenziali. Il 95% delle emergenze sanitarie stanno nel sud del mondo, guardiamo ad esempio l'AIDS, e il 95% invece dei farmaci si trova nel nord. Vista anche la partecipazione di Manu Chao, si pensava che dovesse partecipare a bordo di un carro, invece è stato detto che parteciperà come un normale manifestante camminando sulle sue gambe. È tutto, linea allo studio. Il corteo si è cominciato a muovere, ma la strada è più stretta del corteo e per cui si avanza veramente a passo di lumaca, anzi meno, non si avanza proprio. Io sono con il pezzo di corteo di Attack, che è veramente un pezzo ben nutrito. Tra l'altro, percorrendo il corteo ho scoperto che i francesi sono davvero tanti, ci sono praticamente tutte le anime della sinistra, non di governo, e anche qualche pezzettino di governo della sinistra francese sono arrivate, che ci sono quindi una quindicina di nazionalità diverse nel corteo di attacco. Loro sottolineano in particolare il fatto che adesso esiste anche un attacco Russia e che sono arrivati 40 militanti russi, e che c'è anche comincia ad esserci attacco anche nel Maghreb, in particolare in Tunisia. Infatti la parte del corteo di attacco è aperta da uno striscione in arabo, uno striscione di attacco Tunisia. Tra l'altro i militanti di attacco Tunisia sono anche finiti in prigione per il semplice fatto di aver fondato una sezione di attacco in Tunisia. Ultimo intervento interessantissimo è stato quello del sudafricano Dennis Brutus, della campagna di boicottaggio della Banca Mondiale, e chiede a tutti di boicottare le imprese che partecipano ai progetti della Banca Mondiale, che spingono di fatto i paesi in via di sviluppo a tagliare il più possibile sulla sanità perché hanno degli standard troppo alti, e quindi continuano questa lotta nel boicottaggio. C'è una d'apertura, libertà di movimento, libertà senza confini. Alcuni dei ragazzi che stanno tenendo questo striscione vengono dal Senegal. Argentina, presente. Venezuela, presente. Colombia, presente. Africa, presente. Tu da quanto tempo stai in Italia e dove vivi? Da 4 anni, da 4 anni sono dall'Italia, vivo a Carignano, a Genova. E noi siamo qua per fare una manifestazione pacifica. I poveri saranno sempre poveri come noi, i ricchi saranno sempre ricchi, e questo non siamo d'accordo, lo diciamo forte, forte, non siamo d'accordo. Io mi trovo quasi in testa, e quasi in testa si trova anche una delegazione importante di questa manifestazione, cioè quella dei migranti bresciani, cioè delle persone che l'estate scorsa erano stati protagonisti di una protesta molto importante in Piazza della Loggia a Brescia, una delle prime volte in Italia in cui gli stessi migranti si erano coinvolti in una lotta per il permesso di soggiorno, per i diritti e tutto quanto, una lotta che evidentemente ha ancora molta molta strada da fare, se è vero che oggi qui molti di loro non hanno avuto un reale diritto di manifestare. Quali sono i problemi principali per cui molti di voi non sono potuti venire qui oggi? Perché tanti nostri amici hanno chiesto permesso del lavoro, però a parte dei migrati hanno problemi che loro non ne danno permesso, e per questa cosa tanti ragazzi nostri che hanno preso Ischia e che è venuto qui, per darsi perdono il lavoro. Cioè delle persone che non avendo il permesso dal datore di lavoro sono venute ugualmente, quindi rischiano. Sì, sì, però per noi è importante i nostri diritti, e io voglio ringraziare questa lotta, che dopo questa lotta io ho risultato e io ho preso il permesso di soggiorno e io sto lavorando lì. Devi dare possibilità per scendere da clandestinità. Loro mandano te a uno mese a una parte, altro mese a altra parte, e se tu chiederà con te accidenti o qualcosa, e loro non ne pagano niente e mandano via, e non è possibilità di trovare altro posto di lavoro anche per di questo. Vivi a Genova da quanti anni? Da 10 anni. Cosa fai a Genova? Lavoro nell'ambiente dell'informatica, poi anche sono responsabile tecnico regionale della Lega di Arti Marziali a Genova, sempre in Liguria. Non essendo genovesi, tanti toccano di stare a casa, per esempio, do l'esempio, quelli che abitano in centro storico che non riescono neanche a uscire di casa. Viviamo ma non siamo contenti, e non siamo considerati come gente, come gli italiani. E poi tante mutande. Come mutande? Dedicata a Berlusconi. Ah, ecco. Sporchi sono quelli dentro il G8, e poi dei bastoncini di legno con in cima delle mutande bianche, vere, non di carta finte, delle vere mutande. E sapete benissimo che Berlusconi si era indignato per i panni stesi fuori dai balconi come si usa qui a Genova o come in città, altre città di mare del sud d'Italia, e quindi le mutande in giro per la manifestazione hanno un senso. Lavoro, dignità, siamo affacciati sul mare, quindi si è anche aperto, si è aperta la strada e si ha un'idea della reale dimensione di questa manifestazione, veramente imponente, veramente oltre ogni aspettativa. Si riescono anche a vedere tutte quelle trovate molto divertenti, molto, molto fantasiose che popolano questa manifestazione. Io per fare un esempio sto camminando adesso di fianco a un enorme coccodrillone tutto colorato fatto di cartapesta con dentro delle persone che camminano all'interno, proprio davanti c'è un ragazzo che tiene un bastone con delle banconote, il coccodrillo ha la bocca piena di banconote e evidentemente cerca di prendere anche le altre, inutile dire che chi rappresenta questo immenso coccodrillo. All'interno del coccodrillo ho scoperto che c'è una ragazza che parla italiano e io le passerei da uno dei buchi sulla schiena di questo coccodrillo il telefono per sapere un po' come è nata questa idea del coccodrillo. Io le passo dalla schiena il telefono, eccola qua, è pronta a riceverlo. Abbiamo pensato di fare questo coccodrillo perché volevamo una cosa che tutti vedono, una cosa speciale, è un coccodrillo dove c'è scritto contro potere e profitto, e questo è molto importante per noi perché siamo contro il neoliberalismo o la globalizzazione, perché non basta. 1, 2, 3, permesso non c'è, 4, 5, 6, governo dove sei? Canti e danze per tutta la manifestazione, anche e soprattutto dentro una galleria che è fatto da amplificatore ai suoni di un corteo imponente, pacifico ma grintoso. Forte degli ideali di giustizia sociale e di diritti civili per tutti, a cominciare dai migranti. Proprio i migranti erano però i meno presenti, perché per loro non solo è difficile entrare nei paesi ricchi, ma anche viverci, considerati spesso cittadini di serie B o peggio criminali. C'erano comunisti, cattolici, pacifisti, anarchici, ambientalisti, pezzi di partiti di sinistra, ma soprattutto tanti, tantissimi singoli cittadini. Bandiere rosse, bandiere arcobaleno, ma anche mutande come simbolo anti-Berlusconi, e chi dalle finestre si affacciata a sventolare biancheria intima ha ricevuto lunghi applausi. È stata una dimostrazione di forza politica del movimento No Global, al di là delle aspettative e delle intenzioni degli stessi organizzatori, che, diciamo la verità, non avevano puntato sul corteo dei migranti, lo avevano pensato come una sorta di prova generale, soprattutto per la manifestazione di sabato. Spesso succede che qualche piccolo gruppo veda magari, che ne so, quello che potrebbe essere interpretato come un fazzoletto rosso davanti agli occhi di un toro. Per esempio siamo passati davanti a una vetrina della Rover in cui ci sono pieno di gadget un po' eleganti, o siamo passati davanti a una sede di una banca, anzi di 2 o 3 banche, e in altri momenti, in altre situazioni, questi simboli di questo capitalismo a cui questo corteo voleva dire non potevano essere altrettante occasioni per sfogare una certa rabbia o un certo rancore. Invece niente di tutto questo, anche quelli che vengono descritti come i più cattivi passavano di fronte senza veramente muovere un muscolo, quindi è veramente rassicurante.